Il risultato è giusto, ma proviamo a semplificarlo. Potete scrivere 900 come 9 per 10 alla seconda. Quindi l'energia diventa 9 per 10 alla seconda per 10 alla sedicesima. Usando ancora le proprietà delle potenze, come possiamo riscrivere questo numero? 9 per 10 alla...